Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, buona giornata da Deborah Rosciani. È una data che ha fatto scattare la preoccupazione generale di chi si accinge a stipulare un contratto di compravendita di un immobile. Due giorni fa, il 1 luglio, è entrato in vigore l'obbligo di dotare di attestato di certificazione energetica le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 metri quadrati, vendute o affittate, sia esistenti che di nuova costruzione. Avevamo già anticipato questa notizia, se ne parla da diverso tempo su tutti i giornali, e lo avevamo fatto anche invitando le ospiti che oggi sono tornate a trovarci per spiegarci in cosa consiste questo obbligo, che in realtà al momento è gestito in maniera alquanto diversa dalle regioni. Cosa succede a chi ha già stipulato un compromesso per la compravendita? Questa per esempio è una domanda che ci potremmo fare questa mattina, ma non sapeva niente di tutto questo, può capitare. Cosa succede a Rogito? Con che documentazione dobbiamo presentarci all'atto che definisce la compravendita di una casa? E soprattutto, chi produce questa certificazione se non ce l'abbiamo in qualità di venditori dell'immobile? Insomma, sono tanti i punti da chiarire, cercheremo di mettere un po' di ordine nella materia questa mattina, speriamo almeno di riuscirci, ma se non ce la faremo ci ritorneremo sicuramente. Bentornata Valeria Erba, l'ingegner Valeria Erba, presidente dell'ANIT, l'Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico ed Acustico, benvenuta. Buongiorno. E bentornata anche al notaio Giulia Clarizio, membro del Consiglio Nazionale del Notariato, che è intervenuta tra l'altro proprio per le competenze notarili su questa materia di recente. Notaio Clarizio, bentornata. Buona giornata a tutti voi. Tra l'altro un tema molto maschio, mi sembra che stamattina ci affrontiamo tutto al femminile, vabbè, ci piace anche questo aspetto certo. Inedito di Salva Danaio. 800 24 00 24 è il numero verde per le domande degli ascoltatori, 349 238 6666 invece il numero dei vostri sms. Peraltro avevo già annunciato ieri che avremmo fatto questa trasmissione e ci sono arrivate molte mail da parte di diversi ascoltatori, io cercherò anche di leggerne qualcuna questa mattina per darvi una risposta agli aspetti di questa di tale questione appunto che vi incuriosiscono di più. Diamo anche un'occhiata alla borsa prima di entrare nel vivo del nostro programma. La borsa, che come vi anticipavo nel giornale radio stamattina, è negativa. Ci sono le attese prese di beneficio dopo i rialzi di ieri, insomma la questione è sempre questa: un giorno la borsa va a razzo, il giorno dopo poi ci ripensa. Siamo comunque in una fase di normalizzazione rispetto a tutto quello che abbiamo visto un anno fa sui mercati, anche se tra maggio e giugno sono ritornati un po' a scendere i listini internazionali. Oggi però occhi puntati sulla Banca Centrale Europea, attesa per la decisione sui tassi alle 13.45, non ci dovrebbe essere nessuna novità, un mantenimento allo status quo all'1% per quello che riguarda i tassi di riferimento dell'Eurozona, ma poi ovviamente particolare attesa è concentrata come sempre sulla conferenza stampa che seguirà la decisione sui tassi alle 14.30 del governatore della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet. Abbiamo poi anche il dato sulla disoccupazione americana, anche questo oggi sarà molto interessante monitorarlo. Ieri avevamo avuto le stime dell'agenzia ADP che erano state molto negative, peggiori delle attese, questo tra l'altro aveva portato anche un po' di incertezza sul mercato americano, che comunque è riuscito ieri sera a chiudere positivamente. Milano sta perdendo lo 0,98% sul FTSE MIB, titoli in evidenza, Pirelli più 2, l'automatica in rialzo di un punto con la ex Autostrade, Autogrill più 0,4, Ansaldo più 0,15. I titoli che perdono stamattina parecchio sono soprattutto quelli del settore bancario, il Banco Popolare che ha corso molto negli ultimi giorni oggi frena per il 3%, Ubibanca meno 2,61, Geox meno 2,53, Prismian meno 2,48, perde 2 punti STM, il Monte dei Paschi meno 1,8 con Mediolanum, Generali meno 1,7, Tenaris meno 1,6. L'euro sul dollaro sta andando da una parte all'altra di questa soglia di 1,41, 1,40 e 90 adesso il rapporto di cambio, il petrolio è sui $69 al barile. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, parliamo di questa scadenza, chiamiamola così, che è arrivata 2 giorni fa per chi si accinge a fare un atto di compravendita della casa. Adesso c'è l'obbligo di dotare la propria abitazione di questa certificazione energetica, ma di che cosa stiamo parlando? Certificazione energetica obbligatoria per chi decide di vendere o comprare casa. Da ieri, infatti, in caso di compravendita di singole unità immobiliari, chi vende dovrà presentare un attestato che certifichi il rendimento energetico dell'edificio. ma per il momento solo se ci si trova a condurre la trattativa in alcune regioni, ovvero Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna, e nelle province autonome di Bolzano e Trento, che hanno provveduto a varare le norme per la certificazione energetica. Nelle altre regioni, che hanno la legge regionale ma non ancora i decreti attuativi, per l'attestato si dovrà ricorrere per il momento alla qualificazione energetica, ovvero un modello simile a quello utilizzato per poter richiedere la detrazione fiscale del 55% in caso di ristrutturazioni ai fini di efficienza energetica. Districarsi dunque non è semplice, ma è anche per questo motivo che il Consiglio del Notariato è sceso in campo formulando delle linee guida alle quali i professionisti si dovranno attenere in fase di compravendita. Al momento del rogito, il notaio deve fare presente alle parti che esiste quest'obbligo di dotazione e deve invitarle di conseguenza ad accordarsi su come procedere. La legge, infatti, non impone che la certificazione sia antecedente alla compravendita, ma nemmeno che il certificato debba essere pagato dal venditore. È tuttavia importante che l'acquirente sia messo a conoscenza del problema prima di entrare in possesso della casa, altrimenti potrebbe rivalersi in seguito. Bisogna inoltre considerare che il compratore ha tutto l'interesse ad avere un'attestazione energetica dell'edificio, perché in termini di risparmio energetico, ogni anno questo si concretizza in diverse centinaia di euro a seconda della classe energetica di appartenenza. E come era abbastanza naturale aspettarsi, questa mattina chi sta alzando le antenne in questo momento sono proprio coloro che si trovano in una situazione transitoria, cioè chi magari sta predisponendo tutto ciò che è necessario per fare un acquisto o la vendita di una casa, già magari firmato un compromesso qualche mese fa, non è ancora andato a rogito. Quindi in questo periodo che cosa succede? Come si può sanare una situazione che magari non è a posto? E da allora noi cercheremo di così orientarvi un po' in questi termini. Io faccio fare allora subito la domanda a Dario dalla provincia di Cuneo, prima di dare la parola alle nostre ospiti di questa mattina. Dario. Grazie, buongiorno. Buongiorno a lei. Così la sua domanda ci permette anche proprio di fare un po' di cronistoria di questo provvedimento. Benvenuto, ci dica. Benissimo. Dunque, sono nella situazione classica che ha esposto lei prima. Ho già fatto un compromesso 3 mesi fa. Devo andare in atto ad agosto e ho saputo adesso di dover produrre questo documento. Quindi chiamavo proprio per sapere. Non ho capito, mi scusi, è un acquirente o un venditore lei? No, io sto vendendo il mio alloggio. Ecco, perfetto. Sì. Sì, quindi insomma deve capire come comportarsi naturalmente. Esattamente, sì. E allora cerchiamo di fare un po' di chiarezza su questo. Io vorrei però intanto cercare di capire che diavoleria è questa certificazione energetica, perché qua dobbiamo fare anche un po' di attenzione alla terminologia che utilizziamo. Valeria Erba qua mi deve naturalmente aiutare lei. Sì. Non parliamo di una cosa che ci piove dall'alto, perché parliamo di un adempimento, un'ottemperanza ad una normativa europea alla quale il nostro Stato uniformarsi. Esatto, l'Italia come appartenente alla Comunità Europea deve seguire la direttiva 91 del 2002 che impone l'obbligo alla certificazione energetica dell'edificio, ossia una valutazione del fabbisogno energetico dell'edificio. In che modo? Poi dopo ogni nazione diciamo si è diretta in direzioni magari anche differenti. Tuttavia una delle cose importanti che c'è sulla direttiva europea è proprio il fatto che debba essere comunque dato al vendito, all'acquirente, comunque in un atto di compravendita ci deve essere questo documento. La difficoltà adesso è capire di che documento si tratta e chi può farlo questo documento, perché ci sono a livello nazionale non esistono attualmente delle linee guida che mi definiscono la procedura, mi definiscono chi è il certificatore energetico, chi può farlo, quant'altro. Comunque la cornice normativa di riferimento è il decreto legislativo 192 del 2005. Il decreto legislativo 192 del 2005 all'articolo 6 impone appunto l'obbligo alla certificazione energetica degli edifici con le tempistiche che abbiamo detto, di cui diciamo l'ultima è questa tempistica del 1 luglio 2009 per le singole unità immobiliari in caso di compravendita. Tuttavia non essendoci appunto un a livello nazionale delle linee guida per la certificazione che mi dicono com'è la classificazione, ossia paragoniamoci agli elettrodomestici, perché poi tutto nasce da lì, un edificio in classe A ovviamente è un edificio più efficiente di un edificio in classe D o E o F. Tuttavia la classificazione energetica a livello nazionale non c'è ancora, quindi nelle Marche, nell'Abruzzo, in quelle regioni dove non c'è una delibera regionale, non posso definire una classe perché non ho una classificazione. Ci sono le regioni che si sono mosse in maniera autonoma, perché per la legge Bassanini possono, perché c'è un articolo di cedevolezza nel 192, hanno legiferato in campo di rendimento energetico e hanno dato delle linee guida per la certificazione energetica, e sono quelle che si dicevano prima: Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia e province autonome. Che poi è nato anche il problema del rapporto fra la legislazione nazionale e quella regionale, che è andata via via appunto maturando. Esatto, quindi diciamo che la cosa importante da sapere è che in queste tre regioni più provincia autonoma di Bolzano c'è l'obbligo alla certificazione energetica, quindi a classificare in classe A, B, C, D, E o F che sia l'edificio, in base alla classificazione regionale. Ogni regione purtroppo ha una classificazione diversa in questo momento, con dei parametri diversi. Per tutte le altre regioni invece si parla di attestato di qualificazione energetica, laddove non faccio una classificazione. Io dico che il fabbisogno del mio edificio, consuma, tanto per semplificare, tot kilowattora metro quadro anno. Questo è quello che do, è un documento che mi definisce il consumo dell'edificio fondamentalmente. Quindi, per dirlo in termini semplici, anche per far capire al nostro ascoltatore qual è come dire la documentazione dalla quale dovrebbe... Esatto. Poi l'altra cosa sostanziale è chi può farlo. Nelle regioni dove vige l'obbligo alla certificazione energetica deve essere un tecnico accreditato dalla regione. Quindi Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Provincia Autonoma. Nelle altre regioni può farlo un qualsiasi altro professionista abilitato alla progettazione di edifici e impianti. Non deve essere un terzo dal progetto, cosa che invece deve essere negli altri casi. Non deve essere Quindi insomma abbiamo chiarito la normativa di riferimento, abbiamo chiarito anche quali sono, che cosa dovrebbe esserci scritto in questo documento, qual è il tecnico che ce lo potrebbe redigere. Adesso il punto è capire, notaio Clarizio, cosa deve fare questo ascoltatore che non aveva la più pallida idea della necessità di espletare questo compito, però adesso sta vendendo la sua casa, ha già stipulato un compromesso, deve andare a Rogito entro breve. Allora, venisse da lei questo ascoltatore, lo so che siete intervenuti consigliando sulla questione ai vostri associati massima prudenza, ma che dovrebbe concretizzarsi in che modo? Io intanto volevo farle complimenti perché la sua scheda iniziale è stata veramente molto chiara. Beh, allora facciamo i complimenti a Gaia Romani, che è la mia collaboratrice che l'ha scritta. E ritorno a quello che ha detto prima l'ingegnere Erba, perché è questa normativa che adesso ci trova tutti così sconcertati, come se fosse nata solo ieri, in realtà nasce nel 2002 con questa direttiva, e tra l'altro parla di un qualche cosa di cui parliamo tutti i giorni, perché in fondo comincia proprio dicendoci che si parla di un conseguimento degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas effetto serra posti dal protocollo di Kyoto. Quindi stiamo parlando di una cosa di cui in realtà sentiamo parlare tutti i giorni, poi però magari ci tiriamo indietro e non vogliamo tradurla in obblighi specifici. Allora, per riscendere nel particolare, se è vero che vogliamo tenere sotto controllo le emanazioni, se vogliamo fare sì che si consumi meno energia, come diceva perfettamente prima l'ingegnere, dobbiamo fare in modo di catalogare tutti i nostri edifici. Allora, da questo punto di vista, e poi ci sono anche delle norme speciali per quello che riguarda i fabbricati nuovi, per i quali addirittura questo certificato verrà presentato nel momento in cui si chiede il permesso di costruire. Esatto, perché parliamoci chiaramente, per gli edifici di nuova e recentissima costruzione il problema dovrebbe relativamente porsi, almeno piano, speriamo. Piano, il tema è che il nostro patrimonio architettonico, il nostro paese immobiliare è rappresentato da edifici di ben altra età, quindi altra questione anagrafica. Sì. Perché io ho fatto questo discorso? Perché se noi non lo impostiamo in modo corretto, nell'ottica e nell'obiettivo che vuole raggiungere questa normativa, noi lo consideriamo così un fastidio, l'ennesimo balzello, che viene, allora ci poniamo in una posizione in cui cerchiamo solo di scrollarci di dosso qualche fastidio. In realtà noi dobbiamo pensare che è una normativa che è già entrata in vigore, per cui le nuove costruzioni, addirittura prima ancora, appunto come dicevo prima, di chiedere il permesso di costruzione, ci deve essere questa in base al progetto già si deve indicare quale sarà l'energia necessaria per riscaldare, per avere l'acqua calda di un determinato fabbricato. Quindi questa è l'ottica, addirittura per avere l'agibilità dei fabbricati il cui permesso è stato richiesto dopo l'8 ottobre del 2005, non avranno l'agibilità se noi non la presentiamo. Cosa succede? Che avremo un patrimonio che resterebbe escluso. Mm-hmm. Questo patrimonio, si è detto, a mano, lasciamo perdere le precedenti date, da ieri, praticamente a mano che io devo trasferirlo a titolo oneroso, quindi non sono per tutti gli atti notarili, per esempio per una divisione senza conguaglio non è necessario, per il caso in cui ho un atto di trasferimento, quindi ho anche un trasferimento di denaro, il venditore sta ricevendo dei soldi, l'acquirente sta comprando, quindi è un momento impegnativo per diciamo i due soggetti che si trovano da fronte uno all'altro, non è così un momento qualsiasi della tua vita. Non me lo ricordi quando l'ho fatto io ancora, se ci penso. A questo punto c'è l'onere a carico del venditore, mi dice l'articolo 6 della norma prima richiamata, che deve deve dotare il fabbricato di questo di questo certificato, adesso di questa attestazione, e la distinzione l'ha fatta molto molto bene l'ingegnere prima, quindi non ci ritorno. Non ci ritorniamo. Qual è il problema fondamentale? Perché poi ce lo dobbiamo dire, che la sanzione a tutto questo era fino a poco tempo fa quella della nullità addirittura dell'atto se io non allegavo. Allora questo vuol dire che c'è un interesse pubblico molto forte nel momento in cui è stata emanata questa norma, perché si stava cercando di fare in modo che tutti gli edifici si mettessero a norma. Cosa è successo? Che nel momento in cui è stata abrogata queste tre righe in cui si dice è stata tolta la sanzione. Il riferimento normativo, il decreto legislativo 112 del 2008, perfetto, abrogando i commi 3 e 4 dell'articolo, perfetto, 6 del decreto 192, ha eliminato la sanzione di nullità della compravendita. Mi ha lasciato in realtà in una situazione che paradossalmente è più problematica di prima, perché mentre per il costruttore c'è comunque una sanzione amministrativa che va dai 5.000 ai 30.000 euro, per cui il costruttore oggi nuovo, diciamo del fabbricato nuovo, comunque dovrà dotare dell'attestazione energetica, invece il venditore del vecchio si trova in questa situazione che ha un dovere, un onere, e l'acquirente quindi ha ovviamente un diritto, ma la sanzione è sparita. Ecco. Però, allora, tornando al caso dell'ascoltatore, ha già firmato un compromesso, nessuno delle due parti nell'ambito della compravendita si è posto il problema, probabilmente nell'ignoranza di legge. Siamo trovati in un momento provvisorio, i preliminari che sono stati già firmati in questo momento probabilmente in modo sbagliato non si sono presi carico di questo, perché in realtà la norma esisteva. Allora, se la norma esisteva secondo i principi generali, in realtà io di questa qualità avrei diritto di averla da parte dell'acquirente. È anche vero che forse se si fossero spiegati meglio avrebbero anche magari previsto un prezzo diverso. Allora, in questo diciamo momento particolare, che comunque è brevissimo perché sarà soltanto per quei preliminari che scadono in questo momento, non possiamo far altro che cercare di chiudere il più rapidamente possibile e trovare un accordo che sia da entrambe le parti, anche perché comunque sia la spesa non sarà tale per giustificare una causa fra le due parti, per decidere chi lo deve fare. Ecco, quindi diciamo che in questo momento le due parti troveranno un accordo che potrebbe essere sia quello che sarà fatto a cura e spese, perché poi alla fine si riduce tutto a una questione di soldi, cioè chi paga questa benedetta attestazione, diciamoci la verità. Non sono neanche spese insostenibili, magari anche questo venditore potrebbe, proprio per evitare problemi futuri, perché a quel punto, anche se adesso le due parti non si sono poste il problema, ma comunque secondo lei notaio, ecco, l'acquirente potrebbe sollevarlo in sede di rogito davanti al notaio questo problema? In sede di rogito la cosa va comunque definita, no? Perché se anche io non ho l'obbligo di scrivere tutto quello che le parti definiscono fra di loro, come nell'atto metterò la soluzione di quelli che sono gli impegni e gli accordi per quanto riguarda ad esempio le spese condominiali, a maggior ragione mi sarò preoccupata di controllare che sia tutto chiarito quello che riguarda questa attestazione, come avrò fatto anche per gli impianti. Quindi io chiederò assolutamente se c'è la dotazione, se c'è, qui lo dico, in realtà poi l'allego anche, così siamo sicuri che nessuno se lo perde, perché poi in fondo una volta che è stato allegato, anche se non è obbligatorio, almeno ce l'ho, oppure almeno, siccome non si tratta della certificazione ma soltanto dell'attestazione di qualificazione, posso anche almeno enunciare i dati di questa qualificazione. Ci fermiamo per un attimo, notaio Clarizio, perché devo dare la linea ai colleghi del giornale radio. Certo che noi adesso stiamo prendendo in considerazione proprio esplicitamente le singole unità immobiliari, c'è da dire che anche le questioni condominiali possono essere disciplinate in maniera tale da poter sistemare in maniera non tanto troppo dolorosa dal punto di vista economico questa faccenda. E allora oggi affrontiamo un tema che ci avevate chiesto in molti di toccare, alla luce delle molte domande che ci stavano arrivando all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, e tempo di dotare di attestato di certificazione energetica le abitazioni che sono oggetto di compravendita. E allora cosa dobbiamo fare per metterci a posto con questa nuova normativa in vigore dal 1 luglio? Stamattina ci stanno aiutando l'ingegner Valeria Erba, presidente dell'Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico ed Acustico, e il notaio Giulia Clarizio, membro del Consiglio Nazionale del Notariato. Allora, abbiamo sentito una domanda di un ascoltatore, prima adesso ne sentirei anche qualcun'altra, cominciando per esempio con Anna Maria da Palermo, che saluto. Anna, buongiorno. Buongiorno a lei. Ti dica tutto. Intanto io chiamo da Salerno. Sì, mi hanno scritto Palermo, scusi. Perché ho un altro ascoltatore di Salerno sotto in attesa, che è Raffaele, forse abbiamo fatto un po' di confusione, però. No, assolutamente. Ci dica. Senti, intanto complimenti, perché trattate sempre argomenti molto interessanti. Grazie. Volevo esporre il mio problema. Io sono proprietaria di una villetta schiera su 4 livelli che è datata circa 20 anni. Il mio riscaldamento è a gasolio. Volevo sapere questa certificazione energetica, sì, da chi viene fatta, e se avendo un riscaldamento a gasolio sono ancora, cioè se sono fuori legge, nel senso che magari sia inquinante, quindi dovrei assolutamente fare un collegamento col metano. Era sì, questa in sintesi. Grazie, cioè, grazie molto Anna Maria. Ingegnere Erba, ovviamente poi tra l'altro ci dicevamo a microfoni spenti, tutta la questione di cui stiamo parlando stamattina ruota proprio intorno ai sistemi di riscaldamento dei nostri edifici. Sì, perché è importante ricordarsi che la certificazione energetica, quando si fa a valutare il fabbisogno energetico dell'edificio, è un fabbisogno energetico che tiene conto di quanto disperdo dalle pareti, quindi dall'involucro dell'edificio, ma tiene conto anche dell'impianto, quindi del rendimento dell'impianto, e quindi è strettamente correlata all'impianto di riscaldamento. Quindi tendenzialmente si fa una certificazione dei locali gestiti da uno stesso impianto. Infatti quando si parla di condomini, se c'è l'impianto centralizzato si tende a fare la certificazione del condominio, mm-hmm, se sono impianti singoli si fa la certificazione dei singoli appartamenti. Nel caso della signora, la certificazione la può fare un qualsiasi tecnico professionista abilitato alla progettazione di impianti ed edifici, quindi ingegnere, architetto, geometra. Ci si può banalmente rivolgere anche all'ordine degli ingegneri della propria regione? Assolutamente. Tanto per capire se esiste un elenco di professionisti abilitati in quel caso senso. Sì, non c'è un'abilitazione specifica se non si è nelle regioni che hanno l'obbligo, che abbiamo detto prima. Nel caso della signora non c'è l'obbligo nella sua regione, quindi in realtà farà un attestato di qualificazione energetica, e questo attestato di qualificazione energetica glielo può fare un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti, di solito sono chiamati, ecco, quindi che può essere un termotecnico, geometra, architetto, perito, quant'altro. E sarà riscaldamento a gasolio comunque non è fuori legge, discorso, perché no, la nostra ascoltatrice teme. Non è quello l'argomento, ecco, comunque si fa in ogni caso in questo senso, ecco, va fatta quindi da un tecnico non accreditato dalla regione nel suo caso, perché non c'è l'accreditamento regionale. Angela da Torino, buongiorno. Buongiorno, beh, intanto grazie per avermi consentito di intervenire. Grazie a lei Angela, ci dica tutto. Grazie. Il notaio è stato in realtà piacevolissimamente chiaro, sì, quando ha parlato di un obbligo di certificazione che esiste nel caso di trasferimento oneroso, di beni a titolo oneroso, esatto. Io quello che vorrei chiedere è se esiste un obbligo analogo in caso di stipula di un contratto di locazione, quindi del locatore nei confronti del conduttore, perché appunto io sarei prossima alla stipula di un contratto di questo tipo e volevo riuscire a capire se c'è è prossima magari una disciplina di questo tipo, e poi volevo riuscire a capire meglio in tema di sanzioni, perché mi sembra di aver sentito che non esiste più la nullità, diciamo, dell'atto di compravendita se la normativa non è allegata a rogito. Sì. Ah. Però qui parliamo di compravendita, quindi nel caso, diciamo, del contratto di locazione, a che cosa si va incontro in sostanza, Angela? Perfetto. Esatto, volevo riuscire a capire questo. Angela, la ringrazio. Notaio Clarizio, allora qua ci deve venire in soccorso lei per quello che riguarda gli affitti. Allora, per quanto riguarda gli affitti c'è un abbiamo un articolo 6 che mi dice che c'è l'onere a carico del conduttore, del locatore, voglio dire, scusate, quindi di chi dà in affitto, e fa riferimento al famoso comma 4 che poi è stato abrogato successivamente. Per quanto riguarda, quindi ci sia un vuoto che sarà, mi auguro, colmato al più presto. Colmato. Mm. Per quanto riguarda il Piemonte, perché è vero che noi abbiamo parlato soltanto di quelle regioni che hanno legiferato in modo pieno, volevo far presente che il Piemonte prevedeva sia l'obbligo di dotazione, quindi ha una legge regionale, che l'obbligo di allegazione. Soltanto che poi la sanzione si rifaceva alla sanzione del nazionale e quindi a questo punto è rimasta soltanto la multa per quanto riguarda il costruttore e non per chi fa il trasferimento, però questo obbligo di allegazione, quindi è molto probabile che comunque sia il notaio del Piemonte gli chiedano comunque, lo chiederei, il certificato da allegare agli atti e quindi prudenzialmente lo allegherei anche a un contratto di locazione, perché se mi... Certo, può continuare. Perché diciamo, noi siamo abituati sempre a fare le cose solo pensando alla sanzione. In realtà comunque sia, se questa diventa una cosa normale, non è che prima che non ci fosse il problema del famoso decreto che ci parlava degli impianti, noi non ci preoccupavamo di trasferire un immobile con degli impianti che funzionassero, insomma, oppure se non funzionavano dicevamo che non funzionava niente, l'acquirente era consapevole di questo e quindi il prezzo sarebbe stato diverso. Allora dobbiamo entrare nell'ordine di idee che d'ora in poi questa certificazione energetica fa parte del passaggio di proprietà, sì, infatti, di un immobile. Anche se adesso c'è una fase, come dire, abbiamo ribadito prima, transitoria. Perfetto. Questo non significa che non dobbiamo porci il problema. Perfetto. Perché prima o poi la situazione potrebbe cambiare, rivendere la casa, quindi sì, notaio. Ti voglio di sapere di quanta energia è necessario per poter riscaldare quell'abitazione, né più né meno, come si diceva, quando ormai compriamo gli elettrodomestici, troviamo sopra e andiamo cercando l'etichetta che ci dice qual è il consumo. Allora, siccome prima avevo lanciato un'altra palla, che era quella della, come dire, situazione condominiale, ci metto la domanda di Raffaele, che lei è di Salerno, Raffaele, dico bene? Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. Allora, mi aiuti un po' a porre la questione? Sì. Sì, io mi chiedevo, essendo io proprietario di un appartamento all'interno di un condominio... Come l'80%, forse un po' meno. Sì, esatto, con altri 23 appartamenti. Mi chiedevo, la certificazione energetica, se è riferita solamente all'impianto di riscaldamento, e allora può essere effettuata, diciamo, per ogni singolo appartamento, ma se si parla di certificazione energetica che tende a certificare anche, diciamo, la struttura e le dispersioni termiche attraverso le murature dell'edificio, deve essere esposta dal punto di vista del singolo proprietario o dell'intero edificio? Mm-hmm. Allora, la ringrazio moltissimo, Raffaele. Grazie, perché lei, qua è un tema interessante questo, perché avevo letto che sostanzialmente la legge permetterebbe di ricorrere, per quello che riguarda gli edifici condominiali, permetterebbe di ricorrere ad una certificazione comune che avrebbe il vantaggio di ridurre molti costi e di valere anche per le vendite future. Ingegnere Erba, è così? Allora, volevo rispondere al telespettatore dicendo che comunque non bisogna mai disgiungere quello che è l'involucro, quindi le dispersioni del involucro, dall'impianto, perché la certificazione energetica valuta entrambe le cose. Ad esempio la certificazione della provincia autonoma di Bolzano tiene conto solo dell'involucro, non tiene conto ad esempio dell'impianto, però dall'involucro non si prescinde. Nel caso del signore, se sono appartamenti con riscaldamento autonomo, devono fare una certificazione del singolo appartamento, perché l'impianto gestisce quell'appartamento. Nel momento in cui va a fare una certificazione sul condominio e vuole farla soltanto a livello di involucro, quindi dispersioni dalle strutture, la può fare, ma quando poi deve valutare l'impianto e quindi dare una classificazione, quella che ci viene richiesta, perché quella che ci viene richiesta è involucro più impianto, è difficile da gestire, non ci sono delle metodologie di calcolo ben precise, perché avere 40 caldaiette da 28 kW o da 24 kW non è lo stesso, anche come rendimenti, che avere una caldaia unica da 100, cioè adesso sto facendo un'ipotesi così generica. Quindi in realtà non è così semplice disgiungere le due cose, come ancora più facile trovarsi in questa situazione l'effetto contrario, cioè Milano sono, la maggior parte hanno riscaldamento centralizzato. Infatti lì volevo arrivare. Allora, e allora a quel punto per conflitto di interessi mi ci trovo anch'io, quindi vorrei capire a quel punto c'è il problema opposto, che è più facile da trovare. In quel caso, nella vendita di un singolo appartamento, uno dovrebbe avere la certificazione del suo appartamento. Allora in quel caso l'impianto deve essere trattato a percentuale, perché comunque così si può fare. Ci sono varie metodologie di calcolo per poter trattare questo impianto, però tendenzialmente io vendo il mio appartamento, cioè un appartamento all'interno di un condominio non ha lo stesso fabbisogno energetico del condominio intero, quindi certo, non si può prendere la certificazione del condominio intero e prenderla per l'appartamento. Ecco, questo è l'importante tecnicamente da dire. Ecco, poi a livello appunto magari di quello che va consegnato agli atti notarili in queste casistiche, magari ci sono delle direttive differenti che però non conosco, probabilmente bisogna chiedere al notario. Magari adesso lo chiederemo al notaio, però insomma la legge parla di singole unità immobiliari, pertanto per quanto il condominio voglia venirci in aiuto, proteggerci poi, anche nelle spese. Sì, ecco, poi io dico c'è certificazione e certificazione, perché poi dopo anche lì le procedure per fare certificazione possono essere diverse, come anche i costi, e questo lo dico. Ci sono molti condomini che si stanno muovendo per dare loro ai condomini la certificazione energetica, facendola pagare un quid. A Milano lo stanno facendo in benissimo, diversi casi. Insomma, magari una questione che bene o male si può anche porre. Sì, esatto. Uno potrebbe anche proporlo in un'assemblea condominiale di poter fare un discorso di questo genere. Allora, Giuseppe da Modena, ci dica un po' che cosa le sta succedendo. Buongiorno. Buongiorno. Il problema è questo. Io no, il problema è un altro. Giuseppe deve abbassare la radio perché altrimenti ci sfonda i timpani. Va bene. C'è va anche bene, questo. Così. E qua, tra l'altro, devo dare all'ingegnere Erba poi la possibilità anche di dirci una cosa sul tema dell'inquinamento acustico, a cui tiene moltissimo, se non sbaglio. Però questo è un altro problema, ce lo porremo verso la fine di Salva Danaio. Giuseppe, ci dica. Allora, io ho appena venduto, cioè sono vado a Rogito il mese di luglio ad un appartamento che ho venduto, di cui mi hanno obbligato comunque a fare questo certificato, e fino a lì ci siamo. Il problema è che io ho comperato da un'altra parte, il proprietario praticamente non, cioè lui non ne vuole sapere di questo certificato. Allora io mi chiedo, posso io reclamarlo per diritto questa cosa, oppure è una cosa che magari se il proprietario si rifiuta io devo accettare condizioni? Ecco, questa è la mia domanda. Certo, Giuseppe, la ringrazio molto, anche questo è un caso proprio tipico di fasi transitorie, anche dal punto di vista legislativo, insomma come quella che stiamo registrando in questo momento, anche se la normativa c'è dal 1 luglio, il problema è che lei ha fatto dei compromessi prima. Notaio Clarizio, che facciamo? Gli suggeriamo di mandare a Monterrogito? Però no, lui direi che proprio non vale la pena. Allora, io ripeto, gli atti che abbiamo fatto fino all'altro ieri, allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo affrontato il problema, l'abbiamo chiarito, abbiamo chiesto al venditore e all'acquirente se questo certificato c'era o se non c'era, quali erano gli accordi che in fondo c'erano, e anche se non c'era stato un accordo verbale, qual era in realtà l'accordo sottostante, perché poi le persone, non è che tutto viene espresso, anche se in un preliminare non l'hanno scritto, possono benissimo al momento del definitivo cercare di comprendere uno con l'altro qual era l'accordo vero, perché questo poi è importante che venga formalizzato. Quindi molto probabilmente è vero che c'era un'ignoranza totale, anche se non dovremmo averla, ma comunque sia, se non se n'era mai parlato bisognerà trovare un accordo nuovo, sapendo che adesso questa normativa esiste. Ma sbagliamo a dire adesso esiste diciamo l'obbligo della dotazione, la normativa esisteva già da prima. Quindi noi potremmo fare un discorso di tipo generale dicendo fa parte di una delle qualità naturali ormai dell'appartamento, e quindi il venditore aveva l'obbligo comunque della dotazione, anche se lo sapeva o non lo sapeva. Dall'altra parte è anche vero che io in fondo, come riguardo per gli impianti, potevo anche aver detto va bene, anche se tu non me l'hai dato io acquisto lo stesso, e magari l'accordo che abbiamo fatto sul prezzo prevedeva questo. No, tra l'altro adesso mi scusi se la interrompo, notaio, il caso di Giuseppe così mi fa sollevare anche un altro dubbio. Giuseppe in qualità di venditore, per quello che era di sua competenza il certificato l'ha prodotto, la certificazione l'ha prodotta. Giuseppe, io quello che le volevo chiedere, visto che lei lo sapeva perché aveva questo obbligo in qualità di venditore, prima di stipulare un compromesso e di andare ad un accordo con come dire, la persona che le avrebbe venduto poi in una seconda fase la nuova casa, non le è venuto in mente di chiarire sin dall'inizio questa questione, visto che lei la conosceva? Sì, il fatto è successo proprio questo, che io quando ho acceso questa cosa avevamo già firmato l'accordo e purtroppo era già troppo tardi, cioè per andare un pochettino a muovere di più la cosa. Il problema è che adesso, come diceva il notaio, non vale la pena anche andare a metterò a monte, c'è tutto questo, anche per semplice motivo, anche perché io dove vado, perché ho già praticamente venduto il mio appartamento, comunque devo accettare le cose. Certo. Il fatto era, e quindi il problema è che lei dovrà predisporla probabilmente per una futura compravendita di questa casa, se dovesse farla, ma magari non sarà necessario, però che forse sarà necessario mettersi a posto anche nella nuova situazione, e l'onere di Giuseppe sarà doppio, perché avrà pagato per la vecchia casa e per quella nuova notaio poi alla fine della fiera. Sì, alla fine, in questo momento stiamo solo parlando di soldi, perché se noi e del costo a carico di chi è? Io penso che alla fine, nella normalità, questo sarà un costo a carico del venditore, che darà come porta l'atto di provenienza per dire come sistema le cose che non vanno, darà anche questa certificazione. Ma questo non toglie che non ci possano essere degli accordi per cui l'acquirente dice: guarda, preferisco farmelo fare dal tecnico mio, sono più tranquillo, eccetera eccetera, e me lo pago io. Cioè, si tratta di una libera contrattazione. Allora, passato questo primo momento, dove è difficile dire, perché insomma non dirò mai a nessuno di andare a farci una causa per una cosa di questo genere, chi aveva diritto di pretenderlo e chi aveva l'obbligo di farlo, e a carico di chi era l'obbligo in fondo di predisporlo e di pagare alla fine la parcella, una soluzione va assolutamente trovata. Direi che sarebbe opportuno, doveroso, io vado un po' più oltre, anche se non c'è più l'obbligo di allegazione, io sarei perché effettivamente al momento del rogito ci fosse questo certificato. Sappiamo anche che quello è un momento topico, in quel momento si regola tutto, dopo tutto potrebbe esatto. Non essere e magari fatto. Io lo ribadisco ancora una volta, anche perché non solo perché il notaio Clarizio mi è molto simpatica, la conosco da tempo, ma anche perché è necessario che sappiamo bene quali sono i nostri diritti e i nostri doveri prima di fare un'operazione di questo tipo, che poi con il mutuo allegato ci impegna per un sacco di anni. Facciamoci una visita al notaio prima di stipulare qualsiasi tipo di preliminare. Tra l'altro c'è anche la guida al preliminare d'acquisto, che è stata una guida molto interessante, l'ultima pubblicata con la collaborazione delle associazioni dei consumatori da parte del Consiglio Nazionale del Notariato. Diamo una lettura di questa, di tutta di questo vademecum, che è molto completo, e andiamoci dal notaio un po' prima, non solo per andare a fare un preventivo per capire quanto spenderemo per la compravendita, ma anche per capire tutto ciò che è necessario fare in ordine alla documentazione necessaria, appunto, da allegare o meno in questo caso alla compravendita. La certificazione energetica, ingegnere Erba, magari non ce lo poniamo adesso il problema perché non la vendiamo o non la dobbiamo comprare, ma non è detto che tra un anno la nostra situazione possa cambiare. Il discorso della certificazione energetica poi nasce a livello europeo, in molte nazioni c'è già da tempo e quant'altro, proprio anche per dare un valore maggiore alle case, cioè un discorso anche economico, cioè come adesso un frigorifero, non esistono più frigoriferi in classe C o B, sono tutti in classe A, si spera che un giorno, come sta già succedendo a Bolzano da tempo, anche in tutta Italia si cerchi di costruire solo edifici in classe A. Casa clima. Esatto, solo edifici in classe A, e gli edifici in una classe maggiore avranno un valore economico maggiore rispetto agli altri, quindi il discorso della compravendita è legato anche a quello. Infatti, prima il notaio Clarizio diceva sì, alla fine stiamo un po' riducendo tutto il discorso ad una questione economica, quanto meno devo spendere per fare questa certificazione, chi la deve fare, però alla fine ci interessa questo. Flavio da Viterbo, così mi pare. Sì, buongiorno Deborah, e complimenti per la trasmissione. Ci dica tutto. E volevo chiedere appunto il costo di questo e certificato e qualificazione energetica, se varia, se c'è un minimo, un massimo, e possa questa differenza poi da che cosa è data sostanzialmente? Beh certo Flavio, dipende dalla casa in cui si abita, dal tipo di controllo che va eseguito, dalla qualità, forse ingegnere Erba, sì, del professionista? Dalla qualità anche del controllo che viene effettuato, sicuramente dalla grandezza dell'edificio, dalla tipologia di impianto, però le dico, non esistono dei prezzi massimi e minimi, non è stato dato niente. In più il costo di una certificazione energetica è sicuramente un po' diverso rispetto a quello di un attestato di qualificazione energetica, e poi ripeto, il professionista può fare un attestato senza neanche entrare in casa, dire l'edificio è fatto più o meno così e lo può pagare 50 euro, come invece ci può essere il professionista tecnicamente più valido, che le dà una cosa sicuramente più realistica e più consona, che le fa una certificazione magari per 1000 euro. Ecco. Antonio da Reggio Emilia, l'ultima domanda di oggi, forse riesco a farne anche un altro paio. Comunque in soldoni, chi sta facendo il rogito è, come dire, quella figura che vuole avere la massima chiarezza su come gestire adesso questa faccenda. Antonio, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, finalmente una radio che vale la pena. Grazie. Antonio, lei non è tanto di Reggio Emilia però, eh? Come, beh sì, sono italo-argentino. Infatti sentivo. Però Menozzi, sempre de... ci dica, reggiano. Ci dica, ci dica. Dico, io sono compratore e venditore alla volta, perché devo comprare metà, la metà casa di mia moglie, uh-huh. E voglio sapere che mi deve presentare lei a me. Io questa casa la vendo il 10 di luglio, sì, a un'altra persona, e che devo portare io come venditore. Eh sì, perché se questo qua andiamo a Rogito e mi chiedono quelle cose, certificato energetico, certo. A chi se lo chiedo? A chi porto a casa a farlo? Antonio ha ragione, glielo ribadiamo ancora una volta, un professionista. Sì, un professionista. Se non è nelle regioni Lombardia, Liguria, Emilia Romagna o Provincia Autonoma di Bolzano, è in un'altra regione, in quel caso, beh, nel suo caso però in Emilia Romagna, sì, mi ha detto. Sì, ah no, allora in Emilia Romagna lei deve andare sul sito della regione e vedere l'albo dei certificatori energetici, c'è cioè un albo regionale dei certificatori energetici e scegliere, diciamo, un nome di un professionista in questo albo regionale, quindi deve essere un certificatore accreditato dalla regione. Notaio Clarizio, affido a lei, come dire, il messaggio di chiusura. Ci manca un minuto di tempo prima dei saluti, un'ultima raccomandazione sulla quale torneremo naturalmente, perché abbiamo capito che c'è ancora bisogno di fare un po' di chiarezza, speriamo di aver posto le basi quantomeno in termini generali della questione. Allora io direi dotiamoci di questi benedetti certificati energetici, poi saremo contenti di averli, e soprattutto, come ha già detto lei, andiamo dal notaio per capirne qualcosa di più, però per tempo. Molto prima di firmare qualsiasi molto compromesso, prima di staccare qualsiasi tipo di assegno. Perfetto, e anche le promesse di acquisto prima di firmare quelle. Infatti, un'ultima, magari in 20 secondi riesco a sentire Stefano dalla provincia di La Spezia, in questo caso chiedeva qual è la situazione della Liguria, visto che l'ingegnere Erba conosce la molto Liguria bene. C'è l'obbligo della certificazione energetica, quindi anche lì c'è un albo di certificatori accreditati. Benissimo, Stefano, speriamo di averla accontentata, anche se in maniera molto veloce, ma era questo quanto ci chiedeva. Grazie all'ingegnere Erba per essere stata con noi. Grazie a voi di tutto. Non riesco a farle dire questa cosa dei requisiti acustici passivi degli edifici in 10 secondi, se ci riesce, so che state portando avanti una battaglia. Sì, stiamo cercando di portare avanti una battaglia per cercare di evitare che venga tolto qualsiasi limite all'isolamento acustico degli edifici, cosa che ultimamente stanno cercando di fare. Allora, perché riteniamo che il benessere acustico sia molto importante, forse a volte più del termico. Benissimo, le prometto che ci torneremo su questa questione che mi sta sollecitando anche tra un po'. Grazie anche al notaio Clarizio, a presto. E buon lavoro. Ci ha salutato. Okay. Allora, abbiamo terminato. Noi torniamo naturalmente domani, visto che stiamo ancora affrontando il decreto fiscale varato venerdì scorso dal governo. Sono aumentati i possibili rimborsi per i detentori di obbligazioni all'Italia. Allora domani torneremo anche su questa questione. Buona giornata a tutti.